Se fai parte di una società sportiva o associazione sportiva che vuole usare gli spazi degli impianti e delle palestre del quartiere, che cosa devi sapere? Ogni anno, nei mesi di maggio e di giugno, il quartiere fa un bando pubblico per dare gli spazi e turni di allenamento negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del quartiere. Se ti interessa, devi partecipare al bando. Trovi le informazioni sul bando nella pagina internet del Comune di Bologna che si chiama Altri bandi e avvisi pubblici. Trovi il link delle due pagine qui sotto. Per partecipare al bando, le società sportive e le associazioni sportive devono fare una domanda online nella pagina internet del Comune di Bologna. Trovi l'indirizzo di questa pagina internet qui sotto. Se ci sono turni di allenamento che rimangono liberi, le società sportive e le associazioni sportive possono fare domanda durante l'anno. Anche la domanda per i turni di allenamento che rimangono liberi si fa in internet. L'indirizzo della pagina è lo stesso.